Nel porto di Genova è ormeggiata da tempo immemorabile una vecchia nave da guerra adibita a istituto di rieducazione per minorenni. Il suo nome è La Garaventa. La Garaventa è ferma nel porto, ferma da anni, immobile nel tempo, fissata alla terra da forti gomene e al fango del fondo da grosse catene. La Garaventa non salpa mai. La Garaventa non salpa mai. Vola un gabbiano giocando col vento, nuvole bianche si inseguono nel cielo, passano giorni e mesi e stagioni, è piena la stiva di maledizioni. La Garaventa non salpa mai, la Garaventa non salpa mai. L'elica è ferma, un trifoglio appassito, stretto da 100 ghirlande di conchiglie. Il ponte è lavato da gocce di pianto, il buio è spezzato da un solo lamento. La Garaventa non salpa mai, la Garaventa non salpa mai. Guarda, nel buio del bocaporto, mille speranze rimangono sepolte, aspettano un nastro di luce dal ponte, e intanto marciscono miseramente. La Garaventa non salta mai. La Garaventa non salpa mai. La Garaventa è ferma nel porto, ferma da anni, immobile nel tempo, fissata alla terra da forti gomene e al fango del fondo da grosse catene. La Garaventa non salpa mai, la Garaventa non salpa mai.